Terzo anello ad alta voce. Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Lasciata la vettura al palazzo, il principe si diresse a piedi là dove era deciso ad andare. La strada era breve, ma il quartiere malfamato. Soldati in completo equipaggiamento, cosicché si capiva subito che si erano allontanati furtivamente dai reparti bivaccanti nelle piazze, uscivano con gli occhi smerigliati dalle casette basse, sui cui gracili balconi una pianta di basilico spiegava la facilità con la quale erano entrati. Giovinastri sinistri dai larghi calzoni litigavano nelle tonalità basse dei siciliani arrabbiati. Da lontano giungeva il rumore di schioppettate sfuggite a sentinelle nervose. Superata questa contrada, la strada costeggiò la cala. «Sono un peccatore, lo so, doppiamente peccatore, dinanzi alla legge divina e dinanzi all'affetto umano di Stella. Non vi è dubbio, e domani mi confesserò a padre Pirrone». Sorrise dentro di sé, pensando che forse sarebbe stato superfluo, tanto sicuro doveva essere il gesuita dei suoi trascorsi di oggi. Poi lo spirito di arzigogolio riprese il sopravvento. «Pecco, è vero, ma pecco per non peccare più, per strapparmi questa spina carnale, per non essere trascinato in guai maggiori. Questo il Signore lo sa». Fu sopraffatto da un intenerimento verso se stesso. Mentalmente piagnucolava. «Sono un povero uomo, debole», pensava mentre il passo poderoso comprimeva l'acciottolato sudicio. «Sono debole e non sostenuto da nessuno. Stella, ti fa presto a dire. Il Signore sa se la ho amata. Ci siamo sposati a 20 anni, ma lei adesso è troppo prepotente, troppo anziana anche». Il senso di debolezza gli era passato. «Sono un uomo vigoroso, ancora. E come fu ad accontentarmi di una donna che a letto si fa il segno della croce prima di ogni abbraccio e che dopo, nei momenti di maggiore emozione, non sa dire che è Gesù Maria? Quando ci siamo sposati, tutto ciò mi esaltava. Ma adesso 7 figli ho avuto con lei, 7! E non ho mai visto il suo ombelico. È giusto questo?» gridava quasi eccitato dalla sua eccentrica angoscia. «È giusto? Lo chiedo a voi tutti!» E si rivolgeva al portico della catena. «La vera peccatrice è lei!» La rassicurante scoperta lo confortò e bussò deciso alla porta di Mariannina. 2 ore dopo era già in coupé sulla via del ritorno insieme con padre Pirrone. Questi era emozionato. I suoi confratelli lo avevano messo a giorno della situazione politica, che era molto più tesa di quanto non apparisse nella calma distaccata di Villa Salina. Si temeva uno sbarco dei piemontesi nel sud dell'isola, dalle parti di Sciacca, e le autorità avevano notato nel popolo un muto fermento. La teppa cittadina aspettava il primo segno di affievolimento del potere, voleva buttarsi al saccheggio e allo stupro. Don Fabrizio lo ascoltava appena, immerso com'era, in una serenità sazia, maculata di ripugnanza. Mariannina lo aveva guardato con gli occhi opachi di contadina. Non si era rifiutata a niente, si era mostrata umile e servizievole, una specie di bendicò in sottanino di seta. In un istante di particolare deliquescenza le era anche occorso di esclamare «Principone!». Lui ne sorrideva ancora, soddisfatto. Meglio questo, certo, che in Monchat o in Monsignor Blon, che rivelavano i momenti omologhi di Sara, la sgualdrinella parigina che aveva frequentato 3 anni fa quando per il congresso d'astronomia gli avevano consegnato in Sorbona una medaglia d'argento. Era una buona figliola, Mariannina. Le avrebbe portato 3 canne di seta ponzò la prossima volta. Ma che tristezza anche. Quella carne giovane, troppo maneggiata, quella impudicizia rassegnata. E lui stesso, che cosa era? Un porco e nient'altro. Gli ritornò in mente un verso che aveva letto per caso in una libreria di Parigi. «Signor, donnez-moi la force et le courage, de regarder mon cœur et mon corps sans dégoût». Thank you. La mattina dopo il sole illuminò un principe rinfrancato. Aveva preso il caffè ed in veste da camera rossa fiorata di nero si faceva la barba dinanzi allo specchietto. Bendicò posava il testone pesante sulla sua pantofola. Mentre si radeva la guancia destra, vide nello specchio dietro la sua la faccia di un giovanotto, un volto magro, distinto, con un'espressione di timorosa beffa. Non si voltò e continuò a radersi. «Tancredi, cosa hai combinato la notte scorsa?» «Buongiorno, zio. Cosa ho combinato?» «Niente di niente, sono stato con gli amici. Una notte santa, non come certe conoscenze mie che sono state a divertirsi a Palermo». Don Fabrizio si applicò a radere bene quel tratto di pelle difficoltoso tra labbro e mento. La voce leggermente nasale del ragazzo portava una tale carica di brio giovanile che era impossibile arrabbiarsi. Sorprendersi, però, poteva forse essere lecito. Si voltò e con l'asciugamano sotto il mento guardò il nipote. Questi era in tenuta da caccia, giubba attillata e gambaletti alti. «E chi erano queste conoscenze, si può sapere?» «Tu, zione, tu! Ti ho visto con questi occhi al posto di blocco di Villa Airoldi mentre parlavi col sergente. Belle cose alla tua età e in compagnia di un reverendissimo, i ruderi libertini». Era davvero troppo insolente, credeva di poter permettersi tutto. Attraverso le strette fessure delle palpebre, gli occhi azzurro torbido, gli occhi di sua madre, i suoi stessi occhi lo fissavano ridenti. Il principe si sentì offeso. Questo qui veramente non sapeva a che punto fermarsi, ma non aveva l'animo di rimproverarlo. E del resto aveva ragione lui. «Ma perché sei vestito così? Cosa c'è? Un ballo in maschera di mattina?» Il ragazzo divenne serio. Il suo volto triangolare assunse una inaspettata espressione virile. «Parto, zione, parto fra mezz'ora. Sono venuto a salutarti». Il povero Salina si sentì stringere il cuore. «Un duello! Un grande duello, zio, contro Franceschiello Dio Guardi. Vado nelle montagne, a Corleone. Non lo dire a nessuno, soprattutto non a Paolo. Si preparano grandi cose, zione, ed io non voglio restarmene a casa, dove del resto mi acchiapperebbero subito se vi restassi». Il principe ebbe una delle sue visioni improvvise, una crudele scena di guerriglia schioppettata nei boschi ed il suo Tancredi per terra sbudellato come quel disgraziato soldato. «Sei pazzo, figlio mio, andare a mettersi con quella gente, sono tutti mafiosi e imbroglioni, un falconeri, deve essere con noi, per il re!» Gli occhi ripresero a sorridere. «Per il re, certo, ma per quale re?» Il ragazzo ebbe una delle sue crisi di serietà che lo rendevano impenetrabile e caro. «Se non ci siamo anche noi, quelli ti combinano la Repubblica. Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi. Mi sono spiegato?» Abbracciò lo zio un po' commosso. «Arrivederci a presto. Ritornerò col tricolore». La retorica degli amici aveva stinto un po' anche su suo nipote. Eppure no. Nella voce nasale vi era un accento che smentiva l'enfasi. «Che ragazzo! Le sciocchezze e nello stesso tempo il diniego delle sciocchezze. E quel suo Paolo che in questo momento stava certo a sorvegliare la digestione di Guiscardo. Questo era il figlio suo vero». Don Fabrizio si alzò in fretta, si strappò l'asciugamani dal collo, frugò in un cassetto. «Tancredi, Tancredi, aspetta». Corse dietro al nipote, gli mise in tasca un rotolino di onze d'oro, gli premette la spalla. Quello rideva. «Sussidi la rivoluzione adesso, ma grazie, zione, a presto, e tanti abbracci alla zia», e si precipitò giù per le scale. Venne richiamato Bendicò, che inseguiva l'amico riempiendo la villa di urla gioiose. La rasatura fu completata, il viso lavato. Il cameriere venne a vestire e calzare il principe. «Il tricolore, bravo, il tricolore, si riempiono la bocca con questa parola, i bricconi. E che cosa significa questo segnacolo geometrico, questa scimmiottatura dei francesi così brutta, in confronto alla nostra bandiera candida con l'oro gigliato dello stemma? E che cosa può far loro sperare questa cozzaglia di colori stridenti?» Era il momento di avvolgere attorno al collo il monumentale cravattone di raso nero. Operazione difficile, durante la quale i pensieri politici era bene venissero sospesi. Un giro, due giri, tre giri. Le grosse dita delicate componevano le pieghe, spianavano gli sbuffi, appuntavano sulla seta la testina di Medusa con gli occhi di rubino. Si guardò allo specchio. Non c'era da dire. Era ancora un bell'uomo. Rudere libertino. Scherza pesante quella canaglia. Vorrei vederlo alla mia età. Quattro ossa incatenate come lui. Il passo vigoroso faceva tinnire i vetri dei saloni che attraversava. La casa era serena, luminosa e ornata. Soprattutto era sua. Scendendo le scale capì. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, Tancredi era un grand'uomo. Lo aveva sempre pensato. Le stanze dell'amministrazione erano ancora deserte. Dalle pareti a calce si riflettevano sul pavimento tirato a cera gli enormi quadri rappresentanti i feudi di Casa Salina. Spiccanti a colori vivaci dentro le cornici nere e oro, si vedeva Salina, l'isola dalle montagne gemelle. Querceta, con le sue case basse attorno alla chiesa madre. Ragattisi, stretto fra le gole dei monti. Argivocale, minuscolo nella smisuratezza della pianura frumentaria cosparsa di contadini operosi, donna fugata con il suo palazzo barocco. Ingenui capolavori di arte rustica del secolo scorso. In atti però a delimitare confini, precisare aree, redditi, cose che infatti rimanevano ignote. La ricchezza nei molti secoli di esistenza si era mutata in ornamento, in lusso, in piaceri. Soltanto in questo. L'abolizione dei diritti feudali aveva decapitato gli obblighi insieme ai privilegi. La ricchezza, come un vino vecchio, aveva lasciato cadere in fondo alla botte le fecce della cupidigia, delle cure, anche quelle della prudenza, per conservare soltanto l'ardore e il colore. E da questo modo finiva con l'annullare se stessa. Questa ricchezza, che aveva realizzato il proprio fine, era composta solo di oli essenziali, e come gli oli essenziali evaporava in fretta. Di già, alcuni di quei feudi tanto festosi nei quadri avevano preso il volo e permanevano soltanto nelle tele variopinte e nei nomi. Altri sembravano quelle rondini settembrine ancor presenti, ma di già radunate, stridenti sugli alberi, pronte a partire. Ma ve ne erano tanti. Sembrava non potessero mai finire. Malgrado quest'ultima considerazione, la sensazione provata dal principe entrando nel proprio studio fu, come sempre, sgradevole. Nel centro della stanza torreggiava una scrivania con decine di cassetti, nicchie, incavi, ripostigli e piani inclinati. Era coperta di carte. E benché la previdenza del principe avesse avuto cura che buona parte di esse si riferisse alle atarassiche regioni dominate dall'astronomia, quel che avanzava era sufficiente a riempire di disagio il cuore suo. Gli tornò in mente ad un tratto la scrivania di re Ferdinando a Caserta, anch'essa ingombra di pratiche e di decisioni da prendere con le quali ci si potesse illudere di influire sul torrente delle sorti che invece irrompeva per conto suo in un'altra vallata. Don Fabrizio pensò a una medicina scoperta da poco negli Stati Uniti d'America che permetteva di non soffrire durante le operazioni più crudeli, di rimanere sereni fra le sventure. Morfina, lo avevano chiamato questo rozzo surrogato chimico dello stoicismo pagano, della rassegnazione cristiana. Per il povero re, l'amministrazione fantomatica teneva luogo di morfina. Lui, Salina, ne aveva una di più eletta composizione, l'astronomia. Thank you. Entrò Don Ciccio Ferrara, il contabile. Era un ometto asciutto che nascondeva l'anima illusa e rapace di un liberale dietro occhiali rassicuranti e cravattini immacolati. Quella mattina era più arzillo del consueto. Appariva chiaro che quelle stesse notizie che avevano depresso padre Pirrone avevano agito su di lui come un cordiale. «Tristi tempi, eccellenza», disse dopo gli ossequi rituali, «stanno per succedere grossi guai, ma dopo un po' di trambuste e di sparatorie tutto andrà per il meglio e nuovi tempi gloriosi verranno per la nostra Sicilia. Non fosse che tanti figli di mamma ci rimetteranno la pelle, non potremmo che essere contenti». Il principe borbottava senza esprimere un'opinione. «Don Ciccio», disse poi, «bisogna mettere dell'ordine nell'esazione dei canoni di Querceta. Sono 2 anni che da lì non si vede un quattrino». «La contabilità è a posto, eccellenza», era la frase magica. «Occorre soltanto scrivere a Don Angelo Mazza di eseguire le procedure. Sottoporrò oggi stesso la lettera alla vostra firma». E se ne andò a rimestare fra gli enormi registri nei quali, con 2 anni di ritardo, erano minutamente calligrafati tutti i conti di Casa Salina, meno quelli davvero importanti. Rimasto solo, Don Fabrizio ritardò il proprio tuffo nelle nebulose. Era irritato, non già contro gli avvenimenti che si preparavano, ma contro la stupidaggine di Ferrara, nel quale aveva ad un tratto identificato una delle classi che sarebbero divenute dirigenti. «Quel che dice il buon uomo è proprio l'opposto della verità. Compiange i molti figli di mamma che creperanno, e questi saranno invece molto pochi, se conosco il carattere dei 2 avversari. Proprio non uno di più di quanto sarà necessario alla compilazione di un bollettino di vittoria a Napoli o a Torino, che è poi la stessa cosa. Crede invece ai tempi gloriosi per la nostra Sicilia, come si esprime lui, il che ci è stato promesso in occasione di ognuno dei 100 sbarchi da Nicea in poi, e che non è mai successo. E del resto, perché avrebbe dovuto succedere? E allora che cosa avverrà? Trattative punteggiate da schioppettate quasi innocue. E dopo? Tutto sarà lo stesso, mentre tutto sarà cambiato. Gli erano tornate in mente le parole ambigue di Tancredi, che adesso però comprendeva a fondo. Poco dopo venne Russo, il soprastante, l'uomo che il principe trovava più significativo fra i suoi dipendenti, svelto, ravvolto non senza eleganza nella bunaca di velluto rigato, con gli occhi avidi sotto una fronte senza rimorsi, era per lui la perfetta espressione di un ceto in ascesa. Ossequioso del resto e quasi sinceramente devoto, poiché compiva le proprie ruberie, convinto di esercitare un diritto. «Immagino quanto Vostra Eccellenza sarà seccato per la partenza del signorino Tancredi, ma la sua assenza non durerà molto, ne sono sicuro, e tutto andrà a finire bene». Ancora una volta il principe si trovò di fronte a uno degli enigmi siciliani. In questa isola segreta, dove le case sono sbarrate e i contadini dicono di ignorare la via per andare al paese nel quale vivono e che si vede lì sul colle a 10 minuti di strada, in quest'isola, malgrado lo stentato lusso di mistero, la riservatezza è un mito. Thank you.